Una vecchia storia dice che quando un vagabondo muore, si trasforma in 50 centesimi. Di quelli che trovi per strada, che se ce li hai in tasca la polizia non ti può fare niente. Ti trova a passare il confine? Ce li hai i soldi? Sì, bene. Uomo libero? Ti trova a dormire all'aperto? Ce li hai i soldi? Sì, bene. Uomo libero? Ti trova morto lungo la ferrovia con al posto delle campane di chiesa schiere di treni merci che fischiano e ululano passando furiosi nella notte. Ce li hai i soldi? Sì, bene. Uomo libero. Questo era un vecchio compagno mio, Woody Guthrie, che libero è stato anche senza questi nelle tasche. E come faccio a conoscerlo? Non lo sentite? Questo suono. Sono io. Io? Ero la sua chitarra. Buonasera. Questa canzone... Quale? Quale vuoi fare? Questa canzone che adesso canto non è mia. E la sai? Dico, riesci a ricordartela tutta? Questa canzone viene da lontano. La melodia viene dal tempo profondo. Quello che sta dentro di noi. È antica. Sei sicuro sia la scelta giusta? Le parole, state attenti alle parole. Sono di un amico mio, Gober Reeves. Gober Reeves, canaglia! Forte bevitore di whisky. Al primo bicchiere diventava il tuo migliore amico. Al secondo ti chiedeva di offrirgliene un terzo. Ma al terzo diventava uno dei più grandi cantanti folk americani del nostro tempo. Ah, gli anni 30 del Novecento. Non se li ricorda quasi più nessuno. Ecco, la canzone l'ho imparata da lui. Aspetta, qual è? Eccola. Oddio, è lei, è meravigliosa. Oddio, fa che la birra gliela faccia ricordare tutta. Don't you sleep, you weary hobo. Dormi bene, dolce hobo. Let the town slowly by. E che le città diventino nebbia lontana. Listen to the stereo summon. Non lo senti il treno che corre? That's the hobo's lullaby. È la ninna nanna tua, dolce hobo. Don't you think about tomorrow. E non pensare mai più al domani. Let tomorrow come and go. Il domani viene e poi va. Tonight you'll sleep in a nice warm boxcar. Questa sera è un vagone merci. That wind and snow. Che tiene lontani la neve e il vento. You know the police cause you trouble. E lo so che la polizia ti cerca. They cause troubles everywhere. Per la legge, la libertà è un problema. When you'll die and go to heaven. Solo da morto puoi stare al sicuro. You'll find no policeman there. Non ci sono poliziotti in paradiso. So could you sleep, you weary hobo. E allora dormi bene, dolce hobo. Let the town. Che le città diventino nebbia lontana. Listen to the stereo's humming. Ascolta solo il treno che corre. That's the hobo's lullaby. È la tua ninna nanna, dolce hobo. Provate a descrivere un hobo. Le prime parole azzurre che trovate su Wikipedia sono vagabondo, senza tetto, Stati Uniti. Ah, e poi trovate anche Jack London, Jack Kerouac e altre ancora come controcultura, guerra civile americana, grande depressione. E le ultime quattro servono a descriverli come potreste conoscerli voi, ai giorni vostri. Couchsurfer, motociclisti, rave, pancabestia. Una delle parole che non hanno voluto scrivere è disoccupato. Ah, gli obo. Provate a descrivere un obo. Anzi, immaginate che state camminando in una delle città più belle che conoscete, la città dove siete nati, la città dove avete fatto l'amore per la prima volta, la città dove siete ora. Ecco, un obo è quello che la gente di questa città vi urla contro. Vai via ladro che ci rubi il lavoro, via zingaro ci rubi in casa, via tossico ci rubi in chiesa, via sporco, sei pure negro, vattene frocio. Ma veramente, io sono una donna. Beh, fa lo stesso, vattene, frocia. Quello che nessuno vi dice è che obo chiamano anche ogni barbone trovato morto lungo la ferrovia. A chiamarlo obo si fa prima seppellirlo, si lascia fare al vento che lo ricopra di terra, polvere, fiori, mangiati dai topi. Gli obo. Provate a descrivere un obo. Non si riesce. Un obo è un uomo che ascolti, non che descrivi. E io ho sentito dire questo da uno di loro. Parlando in generale, le ho provate tutte le strade felici che ti portano per il mondo. Parlando in generale, le ho trovate buone per uno che non usa troppo a lungo lo stesso letto. Ma debba andare, come ho fatto io, e osservare le cose prima che siano morte. E la storia che adesso vi racconto è quella di uno di loro. È la storia di senza lavoro, è la storia di giovani scagliati nel futuro senza orizzonti a fare da rete. Well, I'm going down this road feeling bad. Yes, I'm going down this road feeling bad. Well, I'm going down this road feeling bad, Lord, Lord. And I'm going down the street and there's a way. Yes, I'm going where the water tastes like wine. Yes, I'm going where the water tastes like wine. Yes, I'm going where the water tastes like wine, Lord, Lord. And I'm going down the street and there's a way. Oh, you're too dull, I sure hurts my feet. Well, you're too dull, I sure hurts my feet. Yes, you're too dull, I sure hurts my feet, Lord, Lord. And I'm going down the street and there's a way. I'll let me play, yeah. All we want is a job at Hunter's Bay. All we want is a job at Hunter's Bay, Lord, Lord. And I'm going down the street and there's a way. And I'm going down this road, that's the bowl. Well, I'm going down this road, that's the bowl. And I'm going down this road, that's the bowl, oh Lord. And I'm going down the street and there's a way. And I'm gonna be treated this way. Sì, cazzo, mica chiediamo tanto. Siamo in cerca di un lavoro e di una paga onesta, da spendere in vino piuttosto che in acqua. E con le tue scarpe da $2 che ci bucano i piedi ce ne andiamo lungo questa vecchia strada polverosa. Ehi, siamo lontani un milione di strade da casa ormai. Ehi, te la ricordi casa? Okima? Te la ricordi Okima? La città più cantata, ballata, perduta, gridata, predicata, insanguinata, sfrenata e armata di pistola, bastone, rasoio tra tutte le città di campagna d'America. Perché? Ma per il petrolio! Inizio Novecento, boom del petrolio nelle terre più dure e povere degli Stati Uniti. Okima non era niente. Campi, fango, deserto, serpenti a sonagli. Ma adesso... Oh! Oh! Oh, sei uno zotico campagnolo, scemo se non ci vai! e dici: ma io lo son già campagnolo di Yogima, ma azotico e semo no. Dai, fatemi vedere sto petrolio, dove sta? Lì per terra. Ma lì è la mia proprietà, ma lì è il mio campo, ma chi ce l'ha impiantato lì il petrolio? Oh, senza chiedermi il permesso. Ma guarda che il petrolio non si impianta, il petrolio lo si trova. Ma che si trova? Io ci vedo sempre niente, sempre stesso fango, campo, deserto e serpenti a sonagli. Lì c'è la mia stessa solita misera terra che mi ha fatto morire dentro prima ancora di morire fuori. E tu la vuoi? Se ci tieni tanto te la vendo. Oh, pochi soldi, eh. Compresa di serpenti e di mia moglie nella stalla. E succede così ad Yogima, che il futuro cambia posto nel mondo, non è più davanti a te, ma sotto, nel profondo. E qualcuno lo trova, lì. Nel vecchio campo del contadino zotico scemo c'è un giacimento. Allora via la fattoria, e arrivano costruttori di impianti, falegnami, muratori, carrettieri che tirano su le industrie. Lì, un altro giacimento, via i serpenti a soragli, e arrivano commercianti schiavisti a cavallo, giocatori d'azzardo, politici ruffiani e corrotti che diventano gangster e tirano su le banche. Lì, un'altra ancora, e via la moglie, e arrivano prostitute, spacciatori, venditori ambulanti, assassini, girovaghi, cantastorie, predicatori, attori, questi ultimi vengono allontanati dal primo sindaco della città. Anzi, vengono proprio scacciati perché raccontavano storie piene di invocazione all'amore tra uomini di pelle rossa, pelle nera, pelle bianca che si mettono insieme come a formare una grande famiglia allargata. Che schifo! Dice il sindaco. Sono storie immonde, zozze, non cristiane. Ma come fa a crescere una città forte? Una città di ferro, se gli uomini e i bambini per le strade ascoltano storie così. Ma queste cose succedono sulla Yogima, in America. Lì hanno sindaci ignoranti. Noi in Italia non possiamo capire. E così via gli attori e le loro storie, mentre tutti gli altri tirano su Yogima. Città miscuglio dei lavoratori di ogni etnia, città crocicchio di sfortune, città dal nome nativo indiano Creek, che significa città sul colle, e adesso sul colle di Yogima è rimasto solo il cimitero, che è anche l'unico posto dove la gente si può riposare. E allora adesso te la ricordi Yogima, e tu lì eri una specie di indigeno. Tu eri una nuvola fatta di tuoni e lampi, e Yogima era un cielo azzurro. E per te i cieli azzurri sono anche i cieli più vuoti. E allora, ma che cosa ci rimane a fare ad Yogima? Ma non lo senti il treno che corre? Che cosa ci rimane a fare ad Yogima? Ma non lo senti il treno che corre? Un seme ci cresce tra le rocce? No! E allora che... ho capito. È perché non sai dove andare. Vabbè, allora rimani ad Yogima. C'è il petrolio. Arriva il lavoro. C'è il petrolio. E arrivano i soldi. C'è il petrolio e ti compri la macchina. C'è il petrolio e ti compri la casa. C'è il petrolio e i fiumi si riempiono di schiuma nera. C'è il petrolio e i pesci bruciano al sole. C'è il petrolio e l'erba diventa grigia e marrone. C'è il petrolio e i cani gli peggiora la rogna. C'è il petrolio e anche ai serpenti gli schizza via la testa. E tu non li vedi i tuoi giorni nuovi scintillare argentati lontani da qua? Non la vedi tutta quella gente che devi ancora incontrare? Non la vedi la città rimpicciolirsi sempre più? E non li senti i tuoi sogni scalpitare nella testa come cavalli furiosi. E non lo senti il treno che corre? E allora parti. Well, the high sheriff, he told the deputy, want you to bring me Lazarus. Oh, well, the high sheriff, he told the deputy, to bring me Lazarus. And bring him that old lie, Lord, oh, bring him that old lie. Oh, well, the deputy, he told the high sheriff, don't mess with Lazarus. Well, the deputy, he told the high sheriff, don't mess with Lazarus, 'cause he's a dangerous man, Lord, oh, he's a dangerous man. A occhi, ma c'è una stazione. Solo una. È la Smith & Western. I treni che passano per questa stazione non sai se ti fermano in un posto preciso, a un'ora precisa. Il ferroviere si chiama Boomer Swinson. Piccolo uomo. Moglie. Solo quella degli altri. All'ombra del cappello sporco di temporali, al posto degli occhi. Una pipa corta, al posto della bocca. E l'età è quella dei suoi treni. Ogni volta che arriva in un punto delle rotaie dove qualcuno è finito sotto un suo treno, tira la sirena, il fischio più lungo e più triste che si sia mai sentito su strada ferrata. Ecco cos'ha il ferroviere Boomer Swinson al posto del cuore. E io ti sento chiedergli: buongiorno, signor ferroviere, c'è un treno che passa qui oggi? A che ora passa? Good morning, Mr. Railroad Man. What time does your train roll by? Alle 9:16, alle 2:44 e 25 minuti prima delle 5. Grazie, signor ferroviere. Aspetterò il treno passare. Thank you, Mr. Railroad Man. Wanna wait for your train roll by. E me ne sto qui allora, a fumare un po', e aspetto che passi un merci scassato con qualche vagone vuoto. Standing at the platform, smoking a big cigar, waiting for all some old freight train and carries an empty car. Poi ti dirò addio. Addio a te, Okima. Sei stata la mia ragazza, la mia donna raffinata, sei stata la mia perla. Ma col primo treno che passa su questo binario ti dirò addio. I beat that girl, addio, oh boys. Beat that girl, addio. Very next train come down. I bid that girl adieu. I bid that girl adieu, boys. Bid that girl adieu. Very next train can E così, eccoci ad aspettare un treno. E quando aspetti un treno, hai tempo di pensare. Soprattutto qui, alla stazione di Okima, stazione dei treni fantasma. Non tutte le stazioni ti fanno fare gli stessi pensieri, no. Ogni stazione è come una chiromante zingara. Alcune ti predicono il futuro, alcune ti lanciano maledizione, altre ti tolgono di dosso i fantasmi degli amori perduti, altre invece te li fanno rivivere, sì, e ricordare per sempre. La stazione di Okima è una di quelle che ti lascia il tempo di pensare chi sei e trovare così chi diventerai. Hai tempo di pensare che sei un ragazzo di campagna, nato nel 1912, e che i tuoi genitori ti hanno dato il nome del presidente in carica. Woodrow Wilson? Ma sei un pazzo cretino! Sta buona donna che so quel che faccio. Voglio il divorzio! Sta buona donna, non ti agitare. E tanto ormai l'ho già scritto all'anagrafe. Voglio che tu bruci all'inferno! Sta buona donna, sei sconvolta, sei confusa, hai appena partorito, tu non sai quello che dici. Ma io voglio davvero che tu bruci all'inferno! Lo so. Il parto per voi è come un lutto che vi fa dire cose senza senso. Adesso riposa. Riposare? Hai appena dato a nostro figlio il nome di un bacchettone democratico razzista. Abbiamo avuto Lincoln che si è battuto per eliminare la segregazione razziale. E dopo neanche 50 anni noi, americani coglioni, ci dimentichiamo tutto e votiamo di nuovo un presidente che vuole fare le foto segnaletiche ai lavoratori. Perché a lui, gli americani col trattino, non gli piacciono, perché per lui questi irlandesi trattino americani, questi italo trattino americani, è come se portassero nel trattino un pugnale pronto ad affondare nella schiena del nostro paese. E tu guarda se io, Nora, Bell, Tanner, figlia di migrati d'Irlanda e di Scozia, dovevo sposare uno come te, Charlie Guthrie, texano. Che se solo sapevo che avresti chiamato così nostro figlio, non mi sarei mai distesa quella notte con te nel fienile. O sicuramente avrei fatto molto meno la vacca. Però così mi fai vergognare, donna. Così no. Non puoi dire questa cosa davanti a tutti, non vale. Con un nome così nostro figlio diventerà un razzista. No, donna. Nostro figlio diventerà un uomo importante. E il presidente è l'uomo più importante che mi è venuto in mente. Vedrai, donna, il tempo mi darà ragione. Oh, se poi proprio non ti piace, gli troverai un soprannome, no? Sì. E questo soprannome, la gente di tutto il mondo ancora oggi ti chiamerà con questo soprannome. Solo che non arriva subito. A 2 anni ancora tua madre si schifa a chiamarti Woodrow Wilson e la tua famiglia si è costruita una casa nella parte più elegante di Okima. Tuo padre ce l'ha fatta, sì. Tuo padre prende le percentuali sugli acquisti e le vendite dei terreni che i campagnoli zotici scemi regalano agli affaristi del petrolio, alle volpi del petrolio, sì, ai ladri del petrolio. Tuo padre porta a casa un sacco di soldi. Ma il soprannome ancora non arriva. A 7 anni ancora tua madre si schifa a chiamarti Woodrow Wilson, ma inizia a farti conoscere le vecchie ballate d'Irlanda e di Scozia. Lei vuole insegnarti a guardare un oggetto e chiederti chi ha dovuto lavorare per fabbricarlo, chi l'ha posseduto e amato prima di te. Tuo padre porta a casa ogni possibile attrezzo a molla per fare ginnastica, ti vuole insegnare a non lasciarti impaurire, minacciare, sopraffare da nessuno. Tuo padre ogni giorno ha sempre qualche nuovo livido sulla pelle. Ma il soprannome ancora non arriva. A 9 anni nessuno seppe come mai, perché la tua casa prende fuoco, i vicini arrivano con l'acqua. Da dove è scoppiato l'incendio? Ehi, gente, ne sapete qualcosa? Le fiamme sono più forti degli uomini. E Charlie Guthrie dov'è? Al lavoro. E i ragazzi Guthrie a scuola. E mamma Guthrie col bambino? Sono tutti sani e salvi? E nessuno sa niente. E dove andranno adesso i Guthrie? Tuo padre, vedrai, basterà che sbrighi qualche affare a colazione. Lui ha fiuto per gli affari. Metterà insieme abbastanza soldi per fare una casa ancora più bella di quella che avevamo. Tuo padre però la casa non l'ha assicurata. I vicini dicono che siete sul lastrico. E per te? ancora nessun soprannome. A 12 anni siete nella casa nuova, con la stufa arrugginita, periferia povera di Yokima. Tua sorella Clara guarda tua madre lavare i piatti. Mamma! Mamma, fai attenzione, guarda l'acqua che scorre tutta giù. Mamma, mamma, l'acqua è bollente. E tua madre, Nora Bell Tanner Guthrie, non risponde. È assente. Guarda lontano, guarda, insensibile. Dottori in camice bianco che le diagnosticano. Corea di Huntington, malattia neurodegenerativa, sintomi psichici, irritabilità, si estende ai muscoli, tu non stai più in piedi, non cammini più. Malattia ereditaria, insorge in età adulta. Scusate, ma può succedere anche a me? Quanti anni hai, ragazzo? A 18 anni mi conosci. Forse non sono stata la tua prima chitarra e non lo voglio sapere, ma con me hai iniziato a fare cose che non avevi mai fatto prima. Hai iniziato a cantare tutto quello che ti passava per la mente. Allora mi hai portato nelle conche di Yokima, con il boom del petrolio, ormai finito, e il grano soffiato via, e la gente a spasso, afflitta da ipoteche, debiti, conti, malattie. Allora hai iniziato a scrivere canzoni su di loro, perché hai pensato con me che la musica e le canzoni fossero il linguaggio giusto. Lo hai deciso, hai preso coraggio. E adesso hai 20 anni. E dietro di te lasci una città piccola e la lasci in cambio di un paese intero dove ti ci puoi annegare dentro, un paese enorme che ti può inghiottire. L'America. Alla stazione di Yokima hai tempo di pensare che tu, dell'America, non sai niente. Poi eccolo, il treno arriva, eccolo, questo non tira il freno, guarda come arriva, arriva! Oh, calma! Ma come calma? Ma come calma? Ma non lo vedi che arriva? Appunto, calma! Ma come calma? Ma guarda che questo qui arriva e poi passa! E tu lo hai mai preso un treno in corsa? Guarda che questo qui non è un treno da biglietto! E tu lo hai mai preso un treno in corsa che non è da biglietto? Appunto. E allora calma, dai, prima cosa, sapere come si fa. Conosci qualcuno che l'ha fatto prima di te? No. Qualcuno della tua famiglia? No. Qualche tuo amico? No. Ma insomma, ma ci sarà qualcuno, qualche scemo di vita che ha preso un treno così come lo vuoi prendere tu? Dai, pensaci. Ora che altrimenti noi restiamo ad Yokima. Pensa. Ah sì. Jack London! Jack London ha scritto come si fa, bravo! E allora chiedi a Jack London. E Jack London dice: corri, perché il merci arriva tossendo e sputacchiando su per la collina di Yokima. E Jack London dice: corri, e i fari del merci trasformano la notte in giorno. E Jack London dice: corri, E passerà la locomotiva e Jack London dice: corri! E non aveva paura Jack London. E passa il primo vagone, chiuso, e Jack London dice: corri! E non aveva paura Jack London. E passa il secondo vagone, chiuso, e Jack London dice: corri! E non aveva paura Jack London. E passa il terzo vagone, chiuso, e qui Jack London si sarebbe fermato, perché lui lo sa che dopo il terzo vagone il treno accelera, sì, ma per uscire dalla stazione. E se perdo anche quello, basta, aspetta il prossimo, torna a casa. Sì, ma mentre corri tu ti dimentichi di Jack London e ascolti solo Woodrow Wilson Guthrie, che fa improvvisi e continua a correre. E passa il quarto, chiuso, e passa il quinto, chiuso, e passa il sesto, chiuso, e passa il settimo, chiuso, e passa l'ottavo, chiuso, e passa il nono, chiuso, no, è aperto, ci puoi salire, ci puoi salire, è aperto, resta calmo. Sì, ma come si fa? Oh, oh, Jack London, come si fa? Vabbè, vabbè, Jack London è morto da un pezzo, adesso tocca a te, fai qualcosa di tuo! Sali! You gotta walk lonesome valley. Dovrei camminare per quella valle solitaria. Dovrei farlo tutto da solo. Nobody else can do it for you. Nessuno qui può farlo per te. You gotta walk it by yourself. Dovrei camminare tutto da solo. E c'è una strada che porta alla gloria e passa lunga per paesi lontani. Non c'è nessuno che può farlo per te. Possono solo mostrarti da che parte andare. Va bene, va bene, va bene. Allora prima la chitarra, prima la chitarra, prima la chitarra, prima la chitarra. E mi lanci sul vagone. Oh, la custodia attutisce il colpo duro e freddo col vagone. Io ci sono, sì, sì, sì, io sono salva. Ma tu? Ancora corri, dai, muoviti, muoviti, non mi puoi lasciare qui da solo, qua dentro mi rubano, muoviti, muoviti, attaccati lì, alla fine del vagone c'è la scaletta, la piattaforma, ti prego, attaccati, sali, perché io non mi posso buttare giù. I gotta walk, lonesome valley, I gotta walk it by myself, nobody else can do it for me, I gotta walk it by myself. I gotta walk it by myself. I gotta walk it by myself. Un vagone spaccaculo. Ogni treno merci ha un solo vagone spaccaculo. Un treno intero, un vagone solo. E noi? È proprio quello ci siamo beccati. Beh, è normale, se era vuoto, un motivo doveva esserci. Vabbè, ma noi intanto ci siamo. Noi siamo sopra. Un vagone spaccaculo è un vagone che non fai tanta fatica a capire che tipo di vagone è. No, lo capisci subito, distinto. Appena sali... ti abitua. Il vagone spaccaculo ti dà il benvenuto alla nazione in cui sei, al viaggio che ti fai, alla gente che incontrerai, alla sfortuna. Ah, la sfortuna. Bella la sfortuna. Perché? Ma perché ti lascia solo? Dici, non capisco. Vabbè, imparerai. Per adesso capisci questo. La sfortuna è un vagone spaccaculo. E di solito preferisci i giovani. E tu, nel vagone spaccaculo, ci sei dentro e sei solo, comodo, eviti guai. Oh, ma tu lo sai quanti ragazzi muoiono buttati fuori dai treni da quelli più vecchi? Oh, ma guarda che i vecchi sui vagoni sono cattivi. Ti dicono, guarda che il posto l'avevo prima io, cazzo. L'ho preso 50 anni fa, che adesso lo lascio così. A te? Sì? Che... ti piace il posto fisso? Sì? Che ti piace fare i voli con le idee? Ah sì? Allora giù dal treno, via! E quindi rincuorati. Meglio giovane sfortunato che giovane morto. Anche perché la sfortuna fa prima cambiare infortuna che un vecchio lasciare il suo posto. E allora rincuorati. Perché la sfortuna è un vagone spaccaculo. Ma la fortuna è che non ci sono i vecchi. La sfortuna, però, è che il vagone non è solo spaccaculo, ma c'è qualcosa nell'aria che... È polvere fina. Il vagone trasportava cemento. Le parole vengono dal fondo buio del vagone. Pizzica il naso e brucia gli occhi. Oddio, non sei solo. La sfortuna è pignola, ragazzo. Non lascia mai niente al caso. Oddio. Hai trovato un vecchio. Non solo hai trovato l'unico vagone spaccaculo, ma anche con un vecchio sopra. Quello adesso ci butta sotto. Vecchi, vecchi ingordi, vecchi opulenti, vecchi bastardi. Ma che volete da noi? Lasciateci vivere in pace, ma non potete lasciarci uno spazio. I fiori vecchi non fanno posto ai fiori nuovi. Ne ho visti tanti di ragazzi come te. Scappano dalle loro case e il treno li arruola. Sostituiscono i vecchi che perdono la vita a viaggiare sui binari. E poi finiscono per fare la stessa fine. Oddio, è la maledizione del vecchio. Di, è tua la chitarra. Oddio, adesso ti dispiace che fuori dal treno mi fa tornare legno da far fuoco. Posso? Oddio! Oh, ma che fai? Ma mi stai dando al vecchio? Questo vecchio è strano, perché le sue dita sono da giovane, la pelle è liscia, le ossa non sono nodose e mi schiaccia le corde con forza, sicuro, veloce, canta una canzone che dice: There are women of many description. In this queer world, as everyone knows, some are living in beautiful mansions and wearing the finest of clothes. There are blue-blooded queen and princesses who wear charms of diamonds and gold, but the only and thoroughbred lady the rebel girl. That's the rebel girl. She's the rebel girl. For the working class, she's a precious pearl. She brings courage, pride and joy to the fighting rebel boy. Workers of the world, for his greed to fight for freedom with a rebel girl. Her hands may be hardened by labor, and her dress may be not so very fine, but a heart in her bosom is beating. There is true to her class and her kind. And the grafters in terror are trembling when she spite and defiance she'll hurl. 'Cause the only and thoroughbred lady is the rebel. That's the rebel girl, she's the rebel girl. For the working class, she's a precious pearl. She brings courage, pride and joy to the fighting rebel boy. We had girls before, but we need some more in the industrial workers of the world. For us to fight for freedom with the rebel girl. Finisce di cantare e dice: bella chitarra. Oh, beh, grazie. Beh, io sono fatta come tutte le altre. Di legno, insomma. Anche se io diabete rosso. Sì, è più morbido, ma è per fare meglio le curve. E poi io suono più forte, tutte quelle chitarrine striminzite, tutto legno secco che vanno di moda oggi. E poi le mie corde sono fatte d'oro, d'argento. E poi mi ritorna indietro a te. E così lo vedo. In faccia, dico. E non è un vecchio. No, ma sarà poco più grande di te. Ha la faccia ancora giovane, anche se si è stropicciata dei viaggi. Ha gli occhi bollenti di ghiaccio e i capelli un caos ordinato di geometrie armoniche disordinate. Ma è spettinato bene. Sì, è proprio carino. E chiede: come ti chiami? Non, allora, non dare il tuo nome vero, non provarci nemmeno a farlo. Allora, vuoi diventare un uomo o rimanere un ragazzo qualunque? Se hanno sbagliato i tuoi genitori, non è detto che debba sbagliare anche tu. Ah, non ce l'hai un soprannome? Ah, vabbè, improvvisa, dai, inventati qualcosa, dai, dai, dai. Mi chiamo. Woody Guthrie. Sì, suona bene, sì, ti fa sembrare un solitario cowboy scanzonato. E tu? Joel. E da dove vieni? Yevle. Scusa. Dove? Yevle. Come? Yevle. Mamma mia, ma che strano nome. Ed ecco la prima cosa che impari dell'America. Nazione enorme, di paesi sconosciuto, paesi sputo, paesi ricordati dai politici quando hanno bisogno dei loro voti e paesi dimenticati. Quando c'è davvero da risolvere i loro problemi. Paesi dal nome che ti suona straniero. E dov'è? Svezia. E c'è la Svezia in America. Ed ecco la seconda cosa che impari dell'America. Nazione profonda, dove tutti vogliono venire, anche arrivando dall'altra parte del mondo, dall'altra parte del mare. Joel dice: io vado dove mi porta il lavoro. Minatore, spaccalegna, scaricatore di porto, sindacalista. Tu dove vai con la tua chitarra? Dove smonti? Ed ecco la terza cosa che impari dell'America, che il legno la mattina si può svegliare abete e la sera andare a dormire chitarra. E tu rispondi a Joel, dici: dipende da cosa incontro. Sono convinto che ogni posto della terra sia buono per qualcosa, se solo sai capire per cosa. E tu dove smonti? Dovunque ci sia un lavoratore che combatte per i propri diritti. Ah, viaggi spesso, quindi? Sì, da molto. Da quando mi hanno sparato. Sparato? E dove? Oh, nulla di che. Al solito, in testa, a trapassare il cervello. Ed ecco una cosa dell'America che non sapevi. Che a quelli della prigione dello Utah, nelle condanne a morte per fucilazione, piace mirare alla testa dei sindacalisti. Gli pare che la pallottola faccia da chiodo ai pensieri, che l'inchiodi alla testa del sindacalista che muore. Così che i pensieri sovversivi non se ne svolazzino via. Pensieri sovversivi. Ad esempio, un pensiero sovversivo che mai dovrebbe lasciare la bocca di un uomo è un pensiero tipo questo. I lavoratori devono sì raggiungere un benessere economico, ma anche uno spirito rivoluzionario. Senza di questo, la lotta porta solo una felicità temporanea, non a una vittoria. Non piangete per un lavoratore che muore. Organizzatevi, non fate le isole. I tempi devono cambiare. Ma scusa, a te ti hanno sparato nella testa, ma per davvero? Sì, 10 anni fa. E non avevo fatto niente. Mi hanno incolpato per la morte di un negoziante. Sono stati gli imprenditori del rame. Io lavoravo nelle loro miniere. Protestavo per lo sfruttamento di noi lavoratori immigrati pagati meno di un pomodoro al mercato. Ho organizzato riunioni, scioperi, dicevo a loro: guardate la vostra terra. Ma è anche la nostra terra, ma non è meravigliosa? Ma non ne siete innamorati? Ma non vedete i suoi fiumi, i suoi mari, le sue montagne, le sue pianure? E quanto è ricca, fertile, capace di soddisfare ogni bisogno. Se solo non appartenesse a pochi, ma a tutti, voi riuscite a immaginarlo? E alla fine mi hanno ucciso. Ma come vedi sono ancora vivo. Ci vuole più di un'arma per uccidere un uomo come me. Ecco, ora l'America non ti fa capire più una cosa. O questo Juil che ti sta parlando è pazzo perché dice che, che è ancora vivo anche se l'hanno ammazzato 10 anni fa? Oppure il pazzo sei tu? Ma no, no, non è possibile. L'ho visto anch'io, mi ha anche suonato perché lui... E adesso dov'è? E più ti guardi intorno, più il vuoto te lo fa capire. Hai davvero incontrato un fantasma? I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I've a Joe, you're 10 years dead, I never died, said he. I never died, said he. The copper bosses kill you, Joe. They kill your fool, all that. Take more than guns, you kill a man, said Joe. And I ain't dead, said Joe, and I ain't dead. In Salt Lake City, Joe says I ain't standing by my bed. They tried to throw my mother, tried to say Joe, and I ain't dead. Say Joe, and I ain't dead. And standing there as big as life, and smiling in his eyes, he said, what they know. Perché c'è qualcuno che ti sta toccando la bocca fino da dentro. Ah, oh, è sempre una miniera d'oro la bocca di questi ragazzi. Hai trovato qualcosa? No. E guardagli sotto la lingua. E che ci devo trovare? Poesie? No, no, no. Di solito hanno un sacchettino, piccolo, come un cuscinetto. Dei loro soldi fanno un pacchettino e se lo mettono sotto la lingua. O al posto dei denti. Se li tolgono apposta i denti. Ah, hai controllato i denti. E tu continui a svegliarti... Hai dormito? No. Sei svenuto. La polvere di cemento del vagone ti ha mandato nel mondo dei sogni, delle allucinazioni e adesso al posto di Joel c'è questo vecchio con la barba marcia e l'alito incrostato di whisky che ti tocca con forza i denti. Nessuno che balla? No, nessuno. Guarda che secondo me questo ragazzo è solo un poveraccio, un randagio, uno spennato. E ora ti svegli del tutto, scagli via il vecchio lercio divincolandoti come una lucertola. Mi cerchi, mi trovi, mi hai tenuto stretta per tutto il tempo delle allucinazioni. Ti alzi, la camicia di tuo padre addosso, sei pronto a sfidare il mondo per proteggerci. I tuoi pensieri sono grida di aquile, avanti! Venite! Venite avanti che sono molto più scatenato e impazzito di voi e guardi dappertutto come farebbe una preda braccata... Il vagone spaccaculo si è riempito di gente. Devi essere svenuto per molto tempo, devi aver passato molte stazioni, molta strada. E vedi uomini di tutte le razze, sballottati da ogni parte del vagone, in piedi, sdraiati, buttati di qua e di là, appiccicati uno sopra l'altro. e tutti coperti di polvere di cemento. Sembrano cadaveri. E senti odore acre e salato di sudore che inzuppa i calzoni, le camicie cachi, i vestiti da lavoro, le tute, gli abiti sporchi di olio. E poi c'è chi blatera, c'è chi bestemmia, che è troppo debole, malato, affamato, chi è troppo sbronzo per reggersi in piedi. Li conti. 62. Massimo possiamo starcene in 30 qui dentro. Messicani, bianchi, bluesmen, vecchi capi Sioux, pecore dirette al macello. Il vecchio marcio che ti toccava con forza i denti dice: tranquillo, tranquillo, mister chitarra, e se ne va zuppicando verso il centro del vagone, dove c'è un gruppo di gente che sta giocando a carte. Mi chiamo Wintaker, faccio il fabbro. Mi chiamo Greenleaf, meccanico. Liebeck, operaio, lavoro con la dinamite. Mighi Morfina, giocatore d'azzardo, cameriere nel tempo libero. E a te inizia a mancarti l'aria. Devi raggiungere la porta del vagone, ma non è facile, perché troppa gente ha bisogno come te di bere aria pulita, e allora bisogna fare a turno 5 uomini per anta, 15 minuti a testa. Chi è malfermo può stare mezz'ora. Ecco, tocca a te di fare lo spa. Il vento è una fresca prateria. Ti siedi e osservi gli uomini, uno per uno, ruvidi come pannocchie, selvatici come galli cedroni, schiamazzanti come un albero di cornacchie, sbandati, confusi. Ci chiamano Okies. Io sono il miglior sarto di tutta quanta la contea dintorni. Beh, se sei così bravo, perché non vieni a cucirmi ste mutande? Ho raccolto le pesche e le prugne dei vostri frutteti, ho staccato i grappoli dalle vostre vigne per fare il vostro vino frizzante. Lavoratori stagionali, lavoratori migranti, lavoratori profughi, ci chiamano Okies. Il binario su cui viaggiamo è la spina dorsale del nostro paese. Guardate i vostri vestiti, tutti quanti i vostri vestiti messi insieme in questo vagone non pagano $3. Siamo la grande depressione americana. Lavorare? Io? Mai. Se vedo qualcosa che mi piace, me lo tengo. Dov'è quel maledetto figlio di puttana che mi ha dato del pezzente? E come mai hai quella mano fasciata? E come mai hai quella camicia sbregata? Come mai quel sangue sulla faccia? Prendi 4 lavoratori più in gamba del mondo, portagli via il lavoro, falli sentire a terra. È quanto basta per trasformarli delle bestie. Sempre e dovunque, anch'io come il fiume. Nei tuoi campi io lavorerò fino alla morte. La terra la difendo con la mia vita. Veniamo con la polvere e ce ne andiamo con il vento. Till we will. Grim Valley. pastures of plenty, from high desert ground, from ground cooler down where the water runs down. My land I'll defend with my life if they'll be, 'cause my pastures of plenty must always be free. L'unica cosa che ci può fermare è un poliziotto vigilante, cazzo! Maledetti Hawkes, giù dal vagone! Tutti fuori, questa è la stazione di Freeport! Non vi vogliamo! Ladri, lerci, ci appestate il paese! Stranieri, non vi vogliamo nelle nostre scuole! Ti piacerebbe che tua sorella parlasse con uno di questi? Vi mettiamo tutti in galera! E tutti gli Hawkes scendono e scappano come scarafaggi fuori dal vagone! E tu che fai? Vuoi farti prendere? Scappa! Dove? Di là! No, di là ti prendono! Vai dall'altra parte! Segui gli altri! No, no, arrestano anche loro! Ecco, ecco, vai! Sulle rotaie, vai, vai, vai! Un posto sicuro, vai sulle rotaie! Perditi nella stazione, diventa un topo, trovati un buco. Ecco, lì in fondo c'è una luce rossa. È la lanterna dei frenatori. La lasciano appesa di notte fuori dalla porta dei bordelli che vanno a visitare. Così sanno dove andarli a chiamare quando il treno riparte. È così che le luci rosse sono diventate quello che sappiamo. E tu l'hai trovato, è un posto sicuro. Dai, dai, entra! E l'unica cosa che ti ricordi di quel bordello è Rita. Ragazza vestita di viola, profumava di pesca, il tuo giovane amore. In lei c'è tutto il calore, il movimento e la vita di cui nessun uomo può fare a meno. E tu? Sì, tu le dici, tu gli le dici qualcosa, sì, farfugliando. E lei ti guarda dritta, dalla testa ai piedi, e dice: tu pensi che siccome io non ho un uomo, io sia stupida? Tu pensi che io sia scema? E pensi che basta accennare a qualcosa di nudo per agitarmi? Ma io lo so che sono giovane e bella, e so che tutti voi dareste un braccio per stendervi con me una notte di sopra. Io faccio il musicista. Ah sì? E perché sei qui? Non lo so. Ci sono capitato e mi piace. Ah sì? E cosa ti piace di qui? Beh, tutto questo. E a cosa ti serve tutto questo? Non è meglio fare le cose che fai a teatro? No. A me piace andare dove ci sono i grandi ritrovi dei lavoratori, nei cantieri, nei campi, nelle miniere. Ma se tu insistessi un po', credo che potrei fermarmi qui e trovare un lavoro fisso. Con il lavoro fisso di qui guadagneresti quello che ti servirà appena a mantenerti in vita, e non sarà abbastanza per pagare i debiti fatti nei 7 giorni precedenti. Ti sveglieresti con 7 giorni in debito con il mondo. E cosa faresti? Beh, penso che io e te potremmo benissimo vivere sotto un ponte. No, penso che sei un bugiardo. Io penso che hai viaggiato, hai visto cose più belle di me, e io lo so. E pensi che con la tua chitarra non riuscirai mai a fare abbastanza soldi, ma non è così. E io posso mostrarti un modo per uscire da questo schifo senza passare da un treno all'altro e fuggire davanti alla polizia. Non so che forma assumerà, se lavoro o lotta, se fuoco o ghiaccio, ma una cosa la so. Io qui sono nata e qui ci resto. E se vuoi, tu puoi restare qui con me. Cosa scegli? E tu? Come fai a scegliere? Aspetti che ritorni il sole, perché lo sai che facendo l'amore nascono i pensieri più belli. E invece, durante tutta quella notte passata con la più bella ragazza del mondo, è stata proprio Rita a dirti: il mio primo desiderio è che il tuo viaggio continui. Il secondo è che un giorno ti stancherai. Il terzo, che continuerai a fare musica, a raccontare le tue storie. E l'ultimo, non guardare mai il sole che tramonta dietro di te, non guardare mai il buio intorno a te. Oggi sei qui, domani te ne vai, ma dovunque tu sia, quando ti sentirai davvero solo, ricordati di questa notte. ricordati di me. E allora ricordala, Woody. Ricordala, anche se lei non lo saprà mai. E la ricordi mentre cammini in un groviglio di strade. La ricordi mentre guardi i cieli infiniti sopra di te. E la ricordi mentre guardi la valle dorata sotto di te. E viaggi seguendo i tuoi passi fino alle spiagge spumeggianti e ai deserti di cristallo. E tutto intorno a te una voce risuona. Questa terra è fatta per me e per te. As I went walking that ribbon of highways, I saw above me that freedom skyways. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. Roamed and rambled, now for my footsteps on the sparkling sand of a diamond desert. But all around me a voice was sounding. This land was made for you and me. This land is my land. This land is your land. From California to New York Island, from Redwood Forest to the Blue Stream waters, this land was made for you and me. A big high wall tried to stop me. There was a sign on private property, but on the other side I didn't say nothing. That wall was made for you and me. This land is mine.